Your headlights are on. Ore 21:03 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa inizia prove tecniche di trasmissione del suo ultimo appuntamento stagionale per oggi 31 luglio del 2019. La radio stessa probabilmente a breve osserverà la consueta pausa estiva e per quanto mi riguarda si tornerà ad inizio settembre. (0649-1750) contatto telefonico ormai storico. Abbiamo questo numero ormai del 1977, sempre questo. Il sito internet è www.ondarossa.info per usufruire anche dello streaming. Per le comunicazioni mediante posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info e domani sul sito della radio e sulla pagina Facebook prove tecniche di trasmissione /disorder, come di consueto, comparirà la registrazione di questa puntata e la playlist conseguente. Saluti graditissimi a Marta, anche lei di questa storica emittente. Marta, che salutiamo caldamente. Like Awake, valente musicista ambient qui di Roma, Maya dalla Sardegna. È sempre un piacere salutare anche Raffaele Pezzella, che avremo come protagonista anche questa sera. Jean-Claude Aubertot in quel della Val d'Aosta, salutiamo anche lui. Eccolo anche Nicola Locci, anche lui un pezzo della Sardegna, anche lui un grande musicista, Hexagonal Stigmate. Prima di iniziare un saluto anche al maestro Sisto Palombella, anche lui affezionato ascoltatore di questi spazi del sottoscritto. Allora, Raffaele Pezzella lo abbiamo nominato e salutato e di lui, in veste di, diciamo, di produttore, andiamo a scoprire questa compilation che chiaramente continueremo a sentire anche con il ritorno a settembre. Si chiama Drone Islands Land Rising, un album, una compilation molto interessante che fa il punto della situazione proprio della scena più rarefatta, i cosiddetti proprio droni musicali a noi tanto cari. Quindi una serie di artisti italiani e non, una compilation che esce attraverso la 8 Tower Records, etichetta parallela alla già nota Unexplained Sounds. Ancora un saluto a Marta e noi iniziamo con un grosso artista a me molto caro che porta il nome di Akamasots, che ha l'onore di aprire Drone Islands. Di lui ascolteremo Crawling Death e per omaggiare proprio l'ideatore di tutte queste meravigliose compilation, ossia Raffaele Pezzella, ci ascolteremo anche la settima traccia di questa compilation come Sonologist, che porterà il nome di Indostan. qua Sonologist già annunciato un'altra bella traccia di questo Drone Islands, interessantissima compilation. Questa traccia si chiama Indostan. Thank you. due grossi musicisti, due grandi musicisti a me particolarmente cari. Il primo era Herman Klaffholz, Kamasots, studioso di religioni altre, di culture altre, soprattutto di religioni pagane del Centro America, ma non solo. Infatti il simbolo principale di Akamasots è un grosso pipistrello che è da sempre figura centrale della mitologia centroamericana. Herman Klaffholz da Anversa, un artista tutto tondo che si esprime sia attraverso questi drone dark ambient, ma anche attraverso suggestioni etniche, drum and bass, industrial, in tutti i suoi numerosi dischi da molti molti anni. E lui, Raffaele Pezzella, che non ha bisogno di presentazioni, è vero e proprio agitatore culturale attraverso la Unexpressed Sounds label e anche Light Tower Records, attraverso la quale esce questo Drone Islands. Lui ce lo siamo ascoltato naturalmente come sonologist, un bel pezzo Indostan mantrico dal retrogusto anche tibetano, passatemi il termine, mi ha ricordato molte atmosfere tibetane. E quindi ci siamo inoltrati in territori anche ritualistico-sacrali. Drone Islands, ci ritorneremo a settembre, sempre da queste frequenze. And He Told Us to Turn to the Sun è il terzo lavoro, fu il terzo lavoro di Father Murphy, altro progetto italiano che uscì per la Boring Machine nel 2008, una interessantissima etichetta che di tanto in tanto ritiriamo fuori e che ha sotto contratto moltissimi artisti, anche vari tra di loro, assai diversi tra di loro. Loro vanno dal krautrock a Syd Barrett e Pink Floyd, alla psichedelia dunque. Questa sera ci ascoltiamo Hide Yourself in the Hoods e At the Time I Guess We Misunderstood. Un saluto a un amico di questa radio, a Christian, peraltro tassista, che porta in giro Radio Onda Rossa attraverso la sua automobile. Yeah. go down, down, down a bit to see me smile above. Ottimi Father Murphy in una versione un po' particolare, quasi inusuale per loro. Sicuramente c'è molto Syd Barrett, ma anche sonorità vicine a certi Current 93 del passato di David Sibbett, speziato di psichedelia. Father Murphy. Rimaniamo ancora in Italia, un progetto diciamo abbastanza all'inizio della carriera, che chiaramente speriamo sia lunga. Dentro c'è un personaggio famoso della scena elettronica, lui è Emanuele Frau, che abbiamo conosciuto ultimamente anche attraverso Macelleria Mobile di Mezzanotte, qui impegnato con Nona et Decima, al momento un diciamo un EP, come si poteva dire una volta, un due tracce che si può anche ricercare in Bandcamp. Si chiama Stream ed è composta appunto da due tracce che ci ascolteremo entrambe questa sera. C'è un po' di EDM, naturalmente un approccio sperimentale, ma anche sullo sfondo certi risvolti quasi new wave, soprattutto nella voce di Emanuele, una voce ottima peraltro. E dunque il tempo di sentirci questo Stream, prima con The Idis e poi con The Grip. Yeah. Salutiamo con direi entusiasmo l'esordio musicale di Nona et Decima, progetto di Manuele Frau e Nicolas Pucciarelli. Un esordio che porta il nome di Stream, composto di due tracce che ci siamo ascoltate entrambe, The Ides e The Grip, la prima più marcatamente post-rock, una caratteristica che è rimasta anche nel secondo brano, però il secondo brano è nettamente più elettronico, ai confini con l'IDM. È dunque una unione di atmosfere abbastanza diverse tra di loro, ma assemblate egregiamente da Nona et Decima. Emanuele Frau lo salutiamo caldamente, lo conosciamo di più rispetto a Nicolas Pucciarelli, lo salutiamo anche perché da poco si è trasferito in Finlandia e quindi gli auguriamo ogni bene in questa sua nuova avventura scandinava. Stream usciva per la Multiple, una etichetta parallela alla Subsound Records qui di Roma. Ora invece andiamo a Treviso, sempre Italia or dunque, e lo facciamo con Phone Tesla, altro progetto interessantissimo elettronico che si esprime attraverso la Boring Machine, che ritroviamo anche in questa occasione, etichetta di Treviso, ricordo ancora una volta. E quindi ci ascoltiamo New Apple Surface e Unifying All Fundamental Interaction. Intanto salutiamo anche Isa et al. We'll be right back. Benissimo, dunque era Marco Giotto alias Fontesla, musicista proveniente da Treviso, come la Body Machine, etichetta che terremo costantemente sotto osservazione, tanti progetti molto interessanti presso questa label. Questo era un singolo, diciamo, un 5 tracce dal nome Raised by Clear Acid del 2013. Intanto un benvenuto a Enrico Cerrato, musicista che si fa chiamare Petrolio, che abbiamo avuto anche il piacere di vedere live qui a Roma, consigliatissimo. Rimaniamo in Italia, ma andiamo molto indietro nel tempo. Arriviamo alla vecchia scuola industrial e non a caso il progetto si chiama Zona Industriale, un sotterraneo nome proveniente da Cosenza, in attività intorno alla metà degli anni 80 e di tanto in tanto.